Italia in controluce. Buon pomeriggio, sono le 13, 34 minuti e 32 secondi, vi parla Daniele Becchesi, tutti i giorni, vi ricordo, 6.30, 13.30, all'ascolto di Italia in controluce, il programma di Radio 24, della redazione di Radio 24, che lavora sull'inchiesta, sul reportage quotidiano, sui grandi fatti della cronaca. Sono sbarcati a Lampedusa, ma in realtà sono diretti soprattutto in Francia. Ma Parigi ha chiuso le frontiere ai tunisini dell'ultima emergenza di migrazione provocata dalle rivolte del Nord Africa. Raffaella Calanda, per le inchieste di Storiace, che poi ritroverete anche sabato alle 13.15, ha seguito passo passo il cammino degli ultimi migranti, da Lampedusa a Ventimiglia, passando per Genova. Il nome è Ferraduan de Gerba, dell'isola de Gerba, arrivato in Italia, arrivato in barca. Noi partito de Gerba è arrivato in Lampedusa, in Italia. In barca partiti in 300 persone. Eravate in 300 e siete partiti dal porto di Zarzis? Di Zarzis, sì, partiti dal porto di Zarzis, sì. 30 ore. Quanto avete pagato per il viaggio? 1.500 euro. Dove sei diretto, in Italia o in Francia? In Italia, passo in Francia perché tante famiglie in Francia. Gradouane, un passato negli alberghi di Gerba e un futuro immaginato in Francia. Gradouane e il suo viaggio, prima in mare, poi in treno, su, lungo tutto lo stivale, direzione Marsiglia. Ma i progetti di Gradouane, come di molti altri suoi connazionali, si infrangono davanti alle sbarre abbassate d'Oltralpe. Siamo in seria emergenza. I francesi hanno intensificato i controlli a tutti i valichi di frontiera. Non c'è nessuna possibilità di superarli e quindi 20.000 è diventato un tappo, la situazione è ingestibile, ormai siamo arrivati a centinaia e centinaia di arrivi. Guarda la stazione trasformata ormai in un rifugio a cielo aperto e parla di un'emergenza serissima il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino. Accampati poco distanti dai binari ci sono quelli che arrivano con i treni da Genova e ci sono quelli che già tornano dopo averci provato ad andare dall'altra parte. Chi in pullman, chi a piedi, chi in treno, ma il biglietto non garantisce il passaggio e nella città ligure l'insofferenza cresce. Andrea Spinosi, assessore leghista. Il problema è che i francesi hanno completamente chiuso le frontiere, come se fossimo tornati agli anni 80. E questo ci dà il doppio svantaggio, di dover dare un minimo di assistenza a quelli che arrivano e di doverci riprendere quelli che ci rimangono indietro. L'Italia in generale è lasciata completamente da sola dai nostri partner europei, i nostri amici francesi qua. Senza battere ciglio hanno blindato tutto, li ricaricano sui treni come i carri bestiame che andavano a Auschwitz e ce li rimandano indietro. Calze e magliette compaiono sui cespugli di alcune aiuole. Al via vai di ogni stazione si unisce la confusione di chi si trova in questo limbo di partenze e rientri. Scorrono sulle TV le immagini della protesta di Lampedusa, sentite qui dall'altra parte dello stivale, più vicine che mai, conferma lo stesso sindaco. Nell'ultimo giorno e mezzo si sono verificati almeno quasi 300 persone. Sono tutti fermi alla stazione, la stazione è impraticabile e quindi la mia preoccupazione è dei prossimi treni che arrivano. Secondo lei, sindaco, c'è una situazione che può portare a delle emergenze sia per il turismo che di tipo sanitario? Soprattutto per il turismo e di tipo sociosanitario. Non c'è possibilità di farsi delle docce, non c'è possibilità di cambiarsi. Vera emergenza. Devono essere fermate. Quindi dei respingimenti prima che arrivino a Ventimiglia? Bisogna bloccarli prima. Ecco, sindaco, in un certo senso voi vi sentite come cittadini di Lampedusa in questo momento? Certo, fatte le dovute proporzioni, proprio come dice lei. Intanto adesso siamo in super emergenza. Se continua così ancora 2, 3, 4 giorni, allora veramente è un disastro. Lei nota che cresce un po' di insofferenza anche nella popolazione? L'insofferenza è già alle stelle da parte della popolazione. Al confine con la Francia, questi migranti ci sono arrivati dopo essersi allontanati dai vari centri sul continente dove erano stati trasferiti dopo lo sbarco a Lampedusa. 120 erano stati già fermati a Bologna, in stazione, e poi riportati ad Isola Capo Rizzuto. E per giorni, soprattutto sui treni notturni, i ferroviari hanno notato una presenza più frequente di tunisini a bordo diretti verso il nord. Per alcuni che sono stati fermati, altri a picco piccoli gruppi, sono arrivati fino a Ventimiglia, fuggono dal villaggio della solidarietà di Mineo nel Catanese o dalla tendopoli di Manduria nel Tarantino. Nel suo viaggio c'è chi fa tappa a Genova, come i 5 tunisini identificati in Vico del Campo. Pensa che qualcuno sarà venuto di questi qua nuovi da Lampedusa. Via del Campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Quando i poliziotti hanno evacuato il palazzo, hanno avuto la conferma a quello che le graziose di De André avevano già capito. Erano da poco sbarcati a Lampedusa, quelle facce nuove, subito notate in questo dedalo di vicoli e palazzi, dove anche la luce a volte fa fatica a passare. Via del Campo. Dalla soglia dei loro bassi, sedute con le gambe accavallate sugli sgabelli, ciascuna davanti alla propria dépendance, sorveglia il quartiere. Parecchi l'hanno visto in questo palazzo, che sono saliti in questi palazzi nuovi, che parlano tipo francese, non parlano proprio la lingua italiana, non la parlano proprio la lingua. Io dico tale, la notte sto qua fino all'una, alle due di notte, c'è un po' di movimento, però va a capire se sono queste che vengono adesso da Lampedusa. Ma avete notato ad esempio che sono stati portati materassi oppure qualcosa che serve per cucinare? L'abbiamo visto con delle robe in mano che portavano su, perché loro si fanno tutto lì dentro ormai, robe da mangiare, con lenzuole, cuscini. Quindi cioè ogni sera tornano a dormire in questo palazzo salendo sull'impalcatura? Sì, tutte le sere, perché l'abbiamo visto e tutte le sere stanno lì. Adesso vede, stanno cercando di fare qualcosa per non farli venire più su. Scusi, lei è sulla scala in questo momento in Vico del Campo e che sta facendo? Sto mettendo il grasso sulla grata perché vanno su, sul palazzo, dalla finestra. Chi va sul palazzo? I tunisini, i marocchini che vanno su. Cioè in questo palazzo, che è una delle case abbandonate qui di questo quartiere, che è stato occupato dagli stranieri. Sì, perché è stato chiuso. Voi avete visto che anche negli ultimi tempi sono aumentati? Sì, sono aumentati. Vanno a dormire, si vendono anche il letto, prendono il letto e se li vendono. Sono arrivati da Lampedusa. Perché vengono proprio in questa casa? Chi li informa? Perché perché è abbandonata. L'hanno chiusa, loro vanno su, poi si accendono qualche candela, bruciano tutto. Grasso sulle grate e poi sui tubi dell'impalcatura per impedire di fatto l'accesso dalle finestre ad un palazzo puntellato e chiuso perché pericolante e poi già bruciato mesi fa in un incendio. Tutto avviene sotto lo sguardo vigile delle graziose di Via del Campo, che rivendicano il loro ruolo di sentinelle e raccontano delle file notturne di chi rientra, come della compravendita dei posti letto a 5-10 euro o dei tubi di rame staccati per essere rivenduti. Qui in questo budello di vicoli la percentuale di stranieri è altissima, ma il clima è diverso rispetto a Via del Campo o a Via Pre, dove insegne di ogni provenienza sembrano mescolarsi e convivere. Piera qui è una delle pochissime italiane rimaste. Sono arrivati dei nuovi extracomunitari mai visti prima, perché bene o male quelli della zona li conosciamo di vista, e c'era uno che si atteggiava, diciamo, a boss, a capo, che chiedeva soldi a questi ragazzi per poterli fare salire nel ponteggio e dargli un posto per dormire. E questi sarebbero tunisini appena arrivati a Lampedusa? E questi sì, perché erano appunto facce nuovissime, mai viste prima, facce bruciate dal sole, di gente che vive all'aria aperta, sporchi, senza bagaglio, senza nulla. Le trans hanno pensato che questi fossero appunto i nuovi immigrati che stanno arrivando sui barconi a Lampedusa, che stanno sbarcando e che si stanno naturalmente distribuendo per tutta l'Italia. Insiste per portarci a casa sua, al sesto piano di un palazzo dove manca la luce nelle scale, ma in compenso si fa lo slalom tra l'immondizia e i puntelli che reggono i muri. Gli edifici abbandonati dell'ex ghetto sono diventati un rifugio dei migranti diretti in Francia o di chi vuole restare, e per questo, a suo dire, i palazzi sono lasciati andare. Ma qui i piani e le rivendicazioni di ciascuno si confondono, come le trappole per topi seminate nella stanza da letto di Piera davanti alla bandiera della Lega Nord. Dalle finestre si vede la bottega di un ragazzo magrebino che vende fiori. La fame, la gente scappa. È capitato anche in Italia negli anni 50. In questa zona qui, da dove provenite soprattutto? Questo è tutto un mischiaccio, è tutto il mondo. L'importante è comportarsi bene e basta. Si avverte in questa zona anche un po' l'eco di quello che sta succedendo appunto nel Nord Africa. Verranno e poi ritorneranno, perché qua in Italia c'è miseria. E la gente crede di quando sei in Africa, senti l'Italia, credi di avere l'America. Lo sai quanta gente conosco io che è venuta e ritornata giù? Le pubblicità e pensano che... Capito? No, credo, no. Vengono qua. Vengono, poi se ne vanno, fidati. Per quelli che sono sbarcati a Lampedusa in quest'ultima emergenza, Genova e comunque l'Italia è soprattutto un'altra tappa del viaggio dall'Africa verso la Francia. Ma Parigi ha abbassato le sbarre e loro, ora questi tunisini, restano nel loro limbo tra coloro che sono sospesi. Grazie a Raffaella Calanda per questo reportage che ci ha portati nuovamente nelle storie, nelle tante storie di migrazione, quando sono le 13:45 minuti e 12 secondi. Vi saluta Daniele Biacchessi, vi ricordo domani 6:30 naturalmente su Radio 24.